Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Martedì 17 luglio 2012, buongiorno a tutti. Io sono Matteo Caccia, questa è Radio 24 e questo è Voi siete qui. O meglio, questo è il meglio di Voi siete qui, la versione più o meno estiva, più o meno la versione del mese di luglio di Voi siete qui. Vi raccontiamo alcune delle storie che sono andate in onda durante tutta la stagione. Oggi ce ne sono due, come tutti i giorni, che parlano di argomenti diversi, come tutti i giorni. Il primo in realtà è un argomento abbastanza adatto per questo periodo dell'anno, forse sarebbe ancora più adatto fosse ad agosto, ma ad agosto non saremo in onda, quindi tant'è. Ed ha a che fare con i viaggi, semplicemente perché la gente d'estate si sposta di più, no? Quindi prende più la macchina, riempie le autostrade, piglia treni, si sposta da una parte all'altra della penisola, e semplicemente quando più gente si sposta, statisticamente succedono più casini sui treni, sugli aerei e sulle autostrade. Una volta mi è capitato di dover prendere un aereo per andare in Sicilia, dovevo atterrare a Catania. C'era il vulcano però diciamo, per chi non lo conoscesse, c'era un vulcano che stava eruttando. Quel vulcano si chiama Etna, quindi dopo 2 ore di attesa in aeroporto ci hanno spediti a Palermo. Siamo arrivati a Palermo con 3 ore di ritardo. A Palermo c'era un autobus che doveva portarci a Catania, però sulla strada da Palermo a Catania c'era una manifestazione dei dipendenti della FIA di Termini Imerese, quindi il pullman è passato all'interno della Sicilia. Sono partito alle 9:30 del mattino, sono arrivato alle 10 a Catania, poi da Catania dovevo raggiungere Siracusa, ma quello era un altro viaggio. Ecco, questo è semplicemente un piccolo esempio di quello che può succedere quando ci si mette in viaggio e quando succedono delle cose che non sono previste né dall'agenzia di viaggi, se esistono ancora le agenzie di viaggi. Vabbè, né dall'agenzia dei viaggi se esistono ancora, né da voi se avevate organizzato quel viaggio. La prima storia di oggi è la storia di Maria Luisa, che tanti anni fa ha preso un treno per andare a Praga. Ha perso una coincidenza, a un certo punto si è trovata a Vienna da sola, e tutto questo racconta quella sensazione che si ha di smarrimento totale quando hai fatto dei piani e quei piani saltano. Però come spesso succede, non proprio sempre, però quando quei piani saltano, di solito in quella smagliatura spazio-temporale si crea qualcosa che a volte è addirittura interessante. Si intitola Quel treno per Praga, questo racconto. È andato in onda ai primi di gennaio e va in onda adesso, 17 luglio. Il racconto è il racconto di Maria Luisa. ...1976. Avevo chiesto al Ministero degli Esteri una borsa di studio per Praga per fare ricerche sulla letteratura cinese degli anni 30, argomento della mia tesi di laurea. Chiedi almeno 8 mesi, mi aveva suggerito il professore di letteratura cinese, che te ne daranno al massimo 2. Ovviamente me ne dettero 8. Partii in treno, 23enne, con 2 valigie piene di libri e vocabolari cinesi e inglese per Praga, che quasi non sapevo dove si trovasse. Avevo avuto la borsa di studio per compiere ricerche all'Istituto Orientale, che ospitava un'invidiabile biblioteca con libri ed opere degli scrittori cinesi delle prime decadi del XX secolo, raccolti da un famoso sinologo cieco. Ero iscritta all'Università di Venezia, l'Orientale di Venezia, studiavo cinese come prima lingua. Avevo sostenuto degli esami di cinese moderno, oltre che cinese classico, e avevo scelto proprio questo periodo, mi piaceva gli anni 30 in Cina, era un periodo molto particolare. Partì in treno alle 11 di sera e la mattina dopo a Vienna avrei cambiato per Praga. Non avevo però fatto i conti con il terremoto di quell'anno in Friuli. Il treno Venezia-Vienna aveva dovuto deviare il percorso e mi trovai nella capitale austriaca con notevole ritardo. In treno una coppia mi aveva regalato un bigliettino della metropolitana e in inglese aveva cercato di spiegarmi che dovevo cambiare stazione per il treno per Praga. Io scesi di tutta fretta. Odiavo quelle valigie piene di libri che cercavo di trascinare. Le avrei volentieri lasciate sotto una pensilina, ma erano la prova di tutte le mie fatiche di studentessa. Non so che santo mi aiutò, o almeno cercò di aiutarmi. Arrivai alla stazione solo per vedere la coda del treno per Praga che se ne andava, il capostazione che fischiava con il braccio alzato e la sua inesorabile paletta. Buttarsi a terra e piangere forse era una soluzione comprensibile, ma ne andava del mio orgoglio. Forse telefonare a casa e chiedere che qualcuno mi accompagnasse, o almeno che qualcuno mi dicesse che cosa fare, ma lì ne andava della mia caparbietà.